piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Adesso che ho un po' di tempo da poter dedicare alla colazione, mi faccio un po' di acqua col limone. Non è la mia cosa preferita, cioè sentire il gusto del limone la mattina mi fa un po' nausea, però aiuta e è come se risvegliasse, diciamo, il mio organismo. Diciamo che visto che ieri sera hanno comunicato che da oggi praticamente anche tutti i centri estetici diciamo chiudono, io dovevo farmi la ceretta domani, quindi mi è venuto in mente di dedicare questa giornata un po' al benessere. Devo farmi le unghie, devo farmi una maschera, devo farmi la ceretta che ci metterò 80 anni, quindi insomma cercherò di accompagnarvi oggi in questa mia giornata benessere. Adesso di solito io mi guardo mentre mi bevo questa acqua col limone, di solito mi guardo un po' di TikTok, poi mi vado a preparare la vera colazione e devo fare un po' di cose su, devo ordinare alcune cose su Amazon, ma di solito la colazione è il momento che dedico un po' a tipo i video su YouTube. Didi è una ragazza veronese, questo suo canale Colmi Didi, quello che fa è TikTok, ve lo traduco visto che lei lo chiama in una maniera molto più sicuramente attinente all'esatta pronuncia. Comunque Didi sta lì, si fa l'acqua e limone, passa le giornate, ha creato un suo canale in cui racconta quello che alla fine è il racconto omogeneo per tutti. È come dare un senso all'insensatezza generale in questa condizione che potrebbe sembrarci surreale, anzi poteva sembrarci surreale soltanto qualche settimana fa. Oggi è diventata, anche se non tutti sono d'accordo in questo, parte della nostra normalità. Siamo ormai abituati a questa condizione di vita distanziata e di vita segregata. Le parole possono far paura, ma di questo si tratta. Si tratta di una nuova dimensione dell'esistere, in cui siamo stati catapultati. Questa non è una condizione individuale, non è relegata a piccole porzioni della società, non è che una città isolata, un condominio isolato, un quartiere isolato, un appartamento isolato, no, viviamo tutti la stessa situazione. Mi ha scritto questa notte la mia amica messicana dicendo: lo sai, ci hanno detto noi dovremmo stare chiusi dentro casa fino alla fine di maggio, da voi in Italia com'è? Ecco, se penso che in questo momento la mia amica messicana sta vivendo esattamente la mia stessa situazione di stare chiuso dentro casa senza una data certa dalla possibilità che mi separa dalla possibilità di poter uscire di casa, capisco che è qualcosa che la storia dell'umanità non ha mai conosciuto prima. Voi direte l'ha conosciuto prima perché abbiamo avuto tante epidemie, la spagnola bene o male che appartiene all'epoca moderna ha dato una simile condizione a tutto il mondo, è stato un fenomeno che ha investito tutti, sì, ma al tempo della spagnola non esisteva Didi con il suo canale YouTube che mi raccontava che lei si fa la limonata, non esisteva la possibilità di parlare a centinaia di migliaia di persone stando seduto nel vestibolo della propria cameretta da letto come accade a me. Non esisteva la possibilità di rimanere comunque sempre connessi nel proprio isolamento e rimanere ipercollegati con il mondo, e più siamo collegati con il mondo più accentuiamo e ci rendiamo conto in maniera cosmica del nostro senso di isolamento dal mondo. Beh, questo provocherà delle mutazioni. Questo finirà, prima o poi finirà, non sono di quelli che dico andrà bene, andrà tutto bene, che bella, che felicità, ce la faremo, finiremo, la resilienza, tutti questi termini che sono belli e per le narrazioni quotidiane che servono a darci forza, conforto e crearci una patina accettabile nei confronti del mondo, di quello che è il nostro dramma individuale, che non possiamo nemmeno proclamare perché è così per tutti. Con chi ti lamenti? Io che sono un lamentoso di natura, con chi mi attacco per lamentarmi? Da chi mi faccio compiangere? Da chi mi faccio commiserare? Se tutti vivono la stessa situazione. Ecco, questo siccome è un fenomeno sociale, è una mutazione sociale, è chiaro che creerà delle mutazioni nella società. Non saremo tutti più buoni, non saremo tutti portatori di valori, non ci saremo resi conto tutti che esistono gli altri, come una lettura molto superficiale, secondo me, del fenomeno sta annunciando continuamente. Saremo tutti migliori? No, saremo, probabilmente saremo forse anche peggio, che usciremo più incazzati, più poveri, più spaventati, più arrabbiati, con maggiore invidia sociale rispetto a chi ha, secondo noi, vissuto in maniera diversa questa segregazione. Ecco, di questa mutazione, su cui vi prego naturalmente di portare il vostro contributo, perché è importante capire in questo momento come state vivendo voi individualmente alcuni fenomeni che sono stati collettivamente registrati. Dico questo perché il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, che è un luogo in cui gli scienziati si confrontano su vari temi che attraversano anche la società, ha creato proprio un osservatorio permanente, un osservatorio su mutamenti sociali in atto per il Covid-19. È importante capire che esiste qualcuno che ci sta osservando, non ci dà delle soluzioni, ma ci sta osservando, perché il frutto di questa osservazione ci darà probabilmente molte risposte su come lavorare su alcune leve di intervento sui grandi movimenti sociali, sulle mutazioni, sulle tensioni, quando si ritornerà a uno stato di cosiddetta normalità. E ricordate, la normalità non sarà più normale per noi, perché siamo abituati a un altro tipo di normalità. Antonio Tintori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Antonio Tintori è un sociologo e ricercatore del CNR, è un corresponsabile dell'Osservatorio sui mutamenti sociali in atto per il Covid-19. Ecco, è corretto pensare che il CNR sta preparando gli strumenti di gestione di quella che sarà la società riesumata dopo il Covid-19? È questo il nostro auspicio, se non altro la nostra intenzione, i nostri obiettivi, perché chiaramente, come lei diceva qualche istante fa, ci troveremo molto probabilmente di fronte a un panorama, è una tra virgolette normalità che in qualche modo sarà diversa da quella che ha fatto parte del nostro recente passato. Quindi questo è molto importante. Abbiamo avviato questa attività fin dall'inizio di questo distanziamento sociale in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Fondazione Movimento Bambino di Età Maria Rita Parsi, proprio per cercare di focalizzare l'attenzione sugli effetti psicosociali del distanziamento, quindi per esplorare, analizzare, appunto per mezzo di una survey diffusa su scala nazionale, cosa si stesse producendo, cosa sarebbe potuto produrre nella contrazione dell'interazione sociale e della prolungata convivenza abitativa, che sono dei fatti. È corretto dire, Antonio Tintori, che chi comunque dovrà, e verrà un momento in cui qualcuno dovrà prendersene la responsabilità, gestire comunque la società nei suoi bisogni, nelle sue tensioni, nelle sue nuove esigenze, alla fine del momento cruciale Covid-19, dovrà tenere conto che troverà davanti una società diversa. Tutto quello che è valso fino a 2 mesi fa per gestire il consenso, per muoversi attraverso i social, noi siamo reduci delle osservazioni molto interessanti su come la politica si muoveva attraverso i social, ad esempio. Non varrà più, certo. Perché troverà altre persone sui social con un'altra attitudine, con un'altra abitudine, con un'altra addestramento a frequentarli, soprattutto con altro tipo di attesa, con una diversa percezione ciò che viene raccontato. Cominciamo a capire quali sono le prime mutazioni, il fenomeno più importante che secondo voi sta dando dei segnali che qualcosa sta cambiando. Cambia il virus, tutti sappiamo che il virus muterà, ma mutiamo anche noi, e come mutiamo? Mutano allo stesso tempo, stanno mutando forse anche più velocemente gli atteggiamenti e i comportamenti, proprio questo è l'oggetto appunto dell'indagine. Quello che adesso, diciamo, dai primi dati che abbiamo e che stiamo analizzando, c'è moltissima incertezza che attiene tutta la popolazione, parliamo quasi del 45% delle donne, ha una fortissima incertezza che analizziamo su diverse variabili, noi rispetto al futuro, un po' meno, il 31% circa sono gli uomini che pensano questo. E questo mi interessa, scusi un attimo se la interrompo, esiste Prego. Anche una distinzione di genere nella fase sì. di mutazione? Assolutamente sì. Allora, gli uomini in generale, diciamo l'universo maschile ha degli atteggiamenti che non so, potrebbero essere definiti più cauti, ma poi potrebbero essere letti anche in un altro modo, insomma. E per cui quelle che si stanno facendo anche psicologicamente maggior carico in questo momento di tutto quello che sta avvenendo sono sicuramente le donne, e perlomeno la metà, diciamo, delle persone che noi abbiamo raggiunto con questo enorme collettivo statistico che abbiamo appunto riuscito a mettere in piedi, hanno delle quote di incertezza anche sulle variabili, diciamo, delle emozioni primarie, cioè le emozioni che sono proprio alla base del nostro, della nostra percezione, per cui su quelle anche in particolare la tristezza, la paura, l'ansia e la rabbia sono delle emozioni che contraddistinguono fortemente più la popolazione femminile, ma comunque fanno parte in questo momento di tutti, e sono legate ad aspetti economici che ci tiriamo inevitabilmente indietro in questa situazione, ma anche in quell'incertezza dettata appunto da questa brusca, inattesa, imprevedibile interruzione dell'interazione sociale, che per tantissime categorie della nostra popolazione sta determinando degli effetti che sono assolutamente da esplorare, perché nessuno di noi è stato mai sottoposto a uno stress, possiamo dire, di questo tipo. E quello che si sta producendo è un disorientamento di massa. Allora, cominciamo. Intanto chiedo al pubblico di darci, se possibile, testimonianza diretta di quello che stiamo dicendo. Il CNR ha un campione molto vasto, sta cominciando a fare la sua ricerca e comincia a rilevare alcuni episodi che sono degli indicatori di quella che sarà la configurazione della società futura. Quindi chiamate l'800240024, aiutateci a capire con la vostra esperienza principale, personale, quale sia il principale cambiamento che avete riscontrato in voi, chi vi sta accanto. Cos'è che vi stressa di più in questo momento? Come lo combattete? Trovate, visto che siamo stati tutti paladini della difesa del diritto di non essere discriminati per genere, ma qui non stiamo discriminando, vogliamo capire esattamente nella composizione della società che è entrata nella quarantena. Noi siamo entrati in una certa maniera, come fossimo entrati tutti in una grande stanza, perché in fondo abbiamo lo stesso tipo di esperienza. Ecco, in questo momento emergono comunque delle capacità proprio fisiologiche, genetiche, che distinguono anche il genere maschile e il genere femminile, di saper gestire questo tipo di paura. Immagini, viene a pensare che le donne sono sottoposte a un maggiore stress, a una maggiore incertezza, se avevano conquistato comunque degli strumenti di emancipazione, di autonomia, si trovano improvvisamente a essere regredite in maniera velocissima, perché si ritrovano a stare dentro casa senza poter lavorare, con l'immersione totale in una realtà familiare da quale si erano felicemente emancipate. Gli uomini probabilmente sentono come bambini, parlo di me nella mia situazione, mi sento non più in possesso di quegli strumenti di gestione anche dell'autonomia economica, del sostentamento della famiglia, ti senti un po' perduto, ti senti un po' privo di quegli strumenti su cui davi certezza. Ecco, Antonio Tintori, quali sono le certezze che sono, cominciano a essere in precario equilibrio nella nostra proprio composizione sia individuale che del ristretto nucleo sociale che noi gestiamo? Chi ha una famiglia sta con 2 o 3 persone, chi sta solo, fine. Questa è, diciamo, l'entourage in cui si muove la maggior parte delle persone. Ma sì, guardi, in questo momento circa, diciamo, 7 persone su 10 hanno un partner, ma circa il 55% ci sta effettivamente vivendo. Noi abbiamo rilevato un 13% di persone che abitano sole, e naturalmente questo sul fattore perlomeno psicologico influisce tantissimo, perché insomma il periodo oramai a cui siamo sottoposti è questo. Sono più stressate le persone che stanno sole da 2 mesi, immagino che avranno un livello di angoscia forte, anche perché la solitudine, mancano degli strumenti, degli strumenti di compensazione quotidiana della propria ansia, dei propri problemi importanti, anche avere una relazione, una conoscenza, un contatto, un atto, certo, sessuale, certo, erotico, amoroso, amicale, manca questa roba. Manca nella maniera più assoluta. Poi, ripeto, sovrapponiamo questo al fatto che qua ci sono perlomeno 4 di 10 persone che stanno di andare incontro a gravi perdite economiche. Già una persona su 10 ha perso il lavoro e sa che non potrà riacquisirlo in nessun modo. Quindi sono tutti fattori che sono tutte concause, diciamo, che determinano poi delle profilazioni appunto di queste persone, anche per categorie, che ci danno naturalmente delle preoccupazioni. Le certezze in realtà per chi vive invece in una situazione appunto di convivenza con un partner o a proprio in famiglia, diciamo nel senso più tradizionale tra virgolette del termine, sono invece quelle che ci stanno facendo regredire in qualche modo culturalmente alla visione più tradizionale, per esempio, del genere, quindi dei ruoli di genere, e questo non è certamente un fattore positivo. Sa, poi nell'incertezza storicamente è accaduto tantissime volte che uno fa una regressione un po' di tipo conservatore nel passato, perché ci si rifugia nei modelli che già si conoscono, eccetera. Ma dottor Tittori, dico, noi abbiamo fatto una trasmissione ieri sulle necessità che abbiamo messo a punto per la reclusione, cioè cosa avete imparato a fare e non facevate da prima. Mi ha colpito che molte donne che tirano fuori dalla cantina la macchina per cucire della madre, della nonna, ricominciano a cucire, che era il simbolo un po' dell'essere segregata a un ruolo subalterno, l'angelo del focolare che fa l'orlo ai pantaloni, ai mariti, ai figli. E beh, adesso non avendo altro che doversene occupare, perché difficilmente il marito prenderà in mano la macchina da cucire, il marito però comincia a fare il muratore, l'elettricista, il falegname, tutte attività manuali che aveva lasciato comunque a personale subalterno specializzato. Quindi si ritorna a una società lievemente più arcaica. Questo arcaicismo sociale è uno dei rischi o effetti, secondo il punto di vista, perché qualcuno può essere un vantaggio, a cui andremo incontro? Ma è un effetto e secondo me è un rischio più che un vantaggio, perché questo ci fa regredire nella nostra, diciamo, evoluzione culturale, nel senso che allora abbiamo, da una parte sappiamo che spicca in questo momento la lettura dei libri, indipendentemente che siano su un piano virtuale o cartaceo, e questa è sicuramente una delle principali peraltro attività che stiamo facendo in questi giorni, e ben venga che c'è un, diciamo, rinnovato interesse per la cultura, ma d'altro canto, diciamo, la suddivisione dell'attività nel tempo libero dentro casa, che sono quelle poi prevalenti, diciamo, seguono i binari dei condizionamenti sociali, ovvero emergono delle scelte che sono dettate da una visione stereotipata dei ruoli sociali che coinvolge perlomeno due persone su dieci, di cui perlomeno una donna. Per cui che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo in questo periodo moltissime persone pensano che stando dentro casa non ci possa essere quell'equiparazione di cui da tanto tempo parliamo, per la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, che in questo momento effettivamente potremo per la prima volta sperimentare. E invece no, ci deve essere una regressione a quello che in ipotesi si pensa debba essere il ruolo naturale della donna, che è quello di madre e di moglie. Saranno molti contenti, visto che c'erano veementi pulsioni nella politica, nel movimento del pensiero, di ritornare finalmente a una condizione in cui le donne, qualcuno ha detto, le donne smettano di studiare, stiano a casa, facciano i figli. Ecco. Adesso hanno la prova di quello che sarà una società, che torna indietro, in questo caso sarebbe dal punto di vista, perché noi parliamo sempre dal punto di vista culturale di questo, e sembrano poi dei discorsi di stampo pseudo femminista o quant'altro, ma a parte il fatto che non ha nulla a che vedere con questo, ma se qualora noi veramente ci trovassimo di fronte a una regressione culturale di questo tipo, sotto il profilo economico sarebbe un disastro enorme, perché vorrebbe dire che moltissime donne non tenterebbero nemmeno più di scavalcare quegli ostacoli di segregazione alle quali sono oggi ancora sottoposte per l'accesso al mercato del lavoro, per lo sviluppo delle carriere e quant'altro, proprio perché si potrebbero purtroppo adagiare su questo stereotipo che è ancora fortemente vivo nella nostra società, e non solo in ogni caso, che le porta appunto a sostenere questa profezia che si autoavvera, come diceva un tempo Merton, per la quale appunto sono talmente condizionato nel sentire e percepire che il mio ruolo è quello, che quindi adotto quel tipo di comportamento, che quindi evito di immergermi nel mercato del lavoro perché io sono allora, donna. Allora, noi ci fermiamo, Antonio Tintori, solo un istante, devo dare la linea, ho già degli ascoltatori in attesa che ci daranno la prova sul campo di quello che stiamo in qualche maniera tracciando come uno scenario, per alcuni versi inquietante, perché ancora nessuno aveva mai detto, non ho mai sentito dire, che ne usciremo con una società non migliore come le anime belle dicono, saremo tutti migliori, più buoni, no, rischiamo di uscire da questa situazione di crisi con una società molto arcaica che farà dei passi indietro radicali in quello che è stato il cammino dell'emancipazione, della gestione della contemporaneità, del accreditamento di alcuni valori che sembravano non più discutibili se non attraverso alcune retroguardie di pensiero ben definibili. Beh, ritorneremo alla società che si auspicavano tanti, le donne angelo del focolare, gli uomini che dovranno andare in giro, vi sarà molta più difficoltà con il macete in mano a curarsi ogni giorno gli strumenti di sostentamento. E questo un po' ci fa paura. Ci fermiamo un istante. Melog. Primo suggerimento: evita di sguazzare nella paura. Cosa accade? Accade che quando abbiamo paura di qualcosa tendiamo a parlarne tanto, perché la nostra mente è focalizzata lì, abbiamo sempre in mente quelle immagini, quelle scene, quelle parole. E in questi giorni tantissime persone mi stanno scrivendo: Roberto, ho paura, ho paura, ho paura. Ma continuando a ripetere che abbiamo paura, non facciamo altro che alimentare questa paura. Quindi il mio consiglio è: evita tutti i social, di vedere troppi approfondimenti, di parlarne eccessivamente. Cerca di spostare il focus di attenzione su altro e dedicati a questo problema per quel poco che ti serve per informarti da fonti certe e sicure su come stanno le cose. Questo è uno psicologo con canale YouTube, il dottor Roberto Ausilio, che dice quello che in fondo è un po' la scoperta dell'acqua calda, diciamolo, tanti lo dicono in questi giorni: non guardiamo i telegiornali, sono le crociate, basta con la televisione, smettiamola. Sì, ma che facciamo? Il tema è questo, anche noi da 2 mesi, per quanto ci arrovelliamo, parliamo di altro, ogni mattina mi dicono intonti, oggi cambiamo argomento, non tocchiamo il Covid, poi alla fine di questo si parla. Quando è l'unica realtà che ci circonda, siamo tutti immersi nello stesso pentolone, con lo stesso minestrone, e non può parlare altro che delle verdurine che ti girano attorno. Di cosa vuoi parlare d'altro? Non parliamo della paura, di che parliamo? Chi sta dentro casa con una famiglia, con delle persone, con un convivente, alla fine si guarda in faccia, non è che tanti altri argomenti, non è che ci sia questa attitudine così diffusa di descrivere universi interiori, di spaziare attraverso orizzonti indicibili della nostra interiorità. Siamo abituati a parlare di quello che facciamo. La gente di che parlava prima? Andava a cena fuori, parlava quanto è bello andare in quell'altro ristorante, si vedeva, diceva dove va in vacanza, si parlava del lavoro, si parlava male dei colleghi, delle corna degli altri, di questo si parlava. Non è che ci fossero tanti argomenti in più, generalmente nella media conversazioni che appassionavano il mondo. Io ricordo intanto chi mi aiuta, e anzi è indispensabile alla mia messa in onda, che è da Milano Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, Alessandro Chiappini da Roma e Fabrizio Intonti da casa. Detto questo, ricordo che siamo in collegamento con Antonio Tintori, che è un sociologo, ricercatore del CNR, corresponsabile dell'Osservatorio sui mutamenti sociali in atto sul Covid-19. Già ci ha dato una prima idea della società che uscirà mutata, cambiata, e probabilmente il rischio che uscirà una società più arcaica rispetto a quella che è entrata, con una minor attitudine a giocare su quelli che erano i punti forza della contemporaneità. Ci mancherà la leggerezza. Perché? Perché abbiamo passato un periodo che non era per niente leggero. Sentiamo adesso Anna Rosa da Firenze, qualche ascoltatore. Sì, Rosa, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Allora, io penso che questa sorta di regenerazione non ci sarà, perché non tanto perché faccio proiezioni sul futuro, ma storicamente, se ritorniamo al diluvio universale, neanche la venuta di Cristo, cioè la rigenerazione. Vabbè, questa non è storia, questa è fantastoria, sono atti di fede. Parliamo di cose che realmente ci siano fonti concrete. Sono miti che dietro hanno delle verità. Comunque, sì. Il mio stress adesso nella fase 2 come donna, questa era la domanda, no? Iniziale fatta da lei, è questo: io ho 75 anni, sono nonna, e già timidamente mi sento chiedere se poi potrò guardare questi bambini. Io sono anche un po' immunodepressa, sono molto combattuta dentro di me. Questo per un discorso di salute, ovviamente. Faccia pianta Rosa, no, questa è divertente. Le stanno dicendo: nonna, quando tutto finisce, ti accolli i nipotini? Questo le viene domandato. No, prima mi vi accodavo, diciamo, in condominio con l'altra nonna, e va bene. Però in questo momento, che ancora il contagio è molto alto, sinceramente questa cosa mi mette, io mi sono barricata in casa, i bambini li guardo dalla terrazza. È molto diciamo superficiale se i nipoti le chiedono pigliati i bambini. In questo momento lei deve essere salvaguardata, ma lei come me, io ho 65 anni, siamo persone più a rischio rispetto agli altri. Lei è anche immunodepressa, dice no, i nipotini... Finché non passa tutto, c'è la certezza matematica che non sono delle bombe a mano che mi mettete in casa, ve li tenete voi, mi sembra la cosa più logica. Però questo cambia notevolmente anche tutti i sistemi di conforto, gli ammortizzatori emotivi, dei lati belli dell'essere nonna, che in fondo può stare con i nipotini. È una nonna che comunque deve essere privata dei nipotini e a cui poi viene chiesto per di più anche di doversene occupare, come se non fosse molto pericoloso per lei. Ottima prima testimonianza, sentiamo Maglio da provincia di Buongiorno. Asta. Maglio, buongiorno, contento di parlare nuovamente con lei. Buongiorno, io guardi, sto convivendo da settimane qui a casa con mia moglie e con mia figlia, io lavoro in smart working, mia moglie era una maestra chiamata, ha perso lavoro ovviamente, però guardi, mi sente? Pronto? Sì, sì, l'ascolto, pronto? Sto ascoltando. Guardi, io non ho mai visto tanta tranquillità, le mie due donne, mia moglie e mia figlia, sono due teste calde. In questo periodo di clausura, di convivenza forzata, non le ho mai viste così tranquille, così felici, così contente di stare a casa. Mi conferma quello che diceva il ricercatore del CNR, finalmente ha placato l'autonomia e la vivacità delle donne, le sue, ha detto sue due donne, in questo momento non ha mai viste così calme. Ma l'antico si dice proprio questo, la donna deve dargli tanto da fare, capito? Almeno sta tranquilla, allora, e non ha grilli per la testa. No, ma non sono grilli per la testa, semplicemente sono quello che le esigenze delle donne sono quelle degli uomini, non ci prendiamo in giro. Una donna che lavora vuole anche magari poi uscire, mia figlia ha 10.000 interessi, danza, era sempre in giro mia figlia, aveva sempre più pretese come tutti gli altri bambini, adesso ha riscoperto le sue cose, ha riscoperto di stare a casa, magari di fare pranzo e cena con i genitori, che è una cosa totalmente impossibile al giorno d'oggi. Veramente siamo tutti e tre più tranquilli, più felici. È ma chiaro, è certo, che siamo preoccupati. Ritornare diciamo nell'alveo del solco della tradizione tranquillizza tutti, erano sistemi di controllo sociale totale, chiaro, ritorna una famiglia tradizionalmente costituita per una necessità, fuori non si può uscire, quindi la casa non è un albergo necessariamente, le donne hanno meno grilli per la testa, tanto lì stanno, è logico, però questo conforta, anche se in questo momento non ci rendiamo conto, la tesi che in questo momento sta portando avanti il CNR. Michele della Spezia, poi sentiamo Antonio Tintori. Michele, velocemente. Pronto, buongiorno. Sì. Allora, io chiamo per dare un po' la mia esperienza sul quesito se ne usciremo migliori o peggiori. Secondo me ne usciremo peggiori. Beh, questa, uscire migliori è una stupidaggine, migliori che vuol dire. Poi secondo quale metro, che vuol dire migliori? Non lo so, non so cosa voglia dire uscire migliori. E infatti secondo me... Il migliore è un termine suscettibile e soggettivo. Per me, se ne esce una società come quella che sta confortando i nostri ascoltatori, ne usciamo peggiori. Per altri magari è il momento, finalmente le donne stanno a casa, cucinano tutte felici, i bambini non escono più e via dicendo, magari per qualcuno è una società migliore, è soggettivo. Ok, io volevo dare proprio la mia testimonianza del fatto che secondo me ne usciremo peggiori. Io sono in isolamento fiduciario da circa un mese e mezzo, quindi sono da solo, però ho la fortuna di essere in un posto molto bello. Sono praticamente in un posto sul mare e, in una casa con un po' di giardino e nella mia vita social, che da trentenne è assolutamente attiva, vedo che io ci tengo a condividere queste cose qua, ma la verità è che sotto sotto c'è un po' un piacere segreto di far rosicare gli altri che sono chiusi nelle loro stanze. Poi io posso portare tutte le giustificazioni del caso, io sono da solo, non posso fare la spesa, e quindi me la mangio pasta in bianco e riso in bianco, però in realtà a me non me ne frega niente di questa cosa qua. Anche del fatto di essere da solo lo preferirei assolutamente di rientrare dai miei genitori. Sì, però Michele, non gliene frega niente perché si rende conto che è una situazione transeunte, almeno spera, immagina. provi un attimo a pensare come se lei fosse un ergastolano all'isola che non c'è, che se questo dovesse durare per sempre. Penso un attimo a questo, poi vediamo, vuol dire che la mutazione è già in atto, se lei sta bene in questa condizione di isolamento, a mangiare pasta in bianco, guarda il mare, ma comincerà poi a venire la bella stagione e non potrà uscire verso quel mare. Verrà il mare d'inverno, che bello, romantico, ma romantico quando ne parli con qualcuno, non quando stai solo. Insomma, qualcosa cambierà. Allora, torno ad Antonio Tintori, sociologo ricercatore del CNR. L'abbiamo dato qualche idea di un campione medio di umanità reclusa in questo momento. Trova qualche conferma o qualcosa da commentare alla luce della vostra, diciamo, dei risultati del vostro osservatorio? Sì, trovo riscontro rispetto a quanto dicevo, rispetto anche a quanto diceva lei in risposta a quell'ascoltatore prima, perché purtroppo io penso a volte siamo talmente immersi nei condizionamenti sociali che veramente non ci rendiamo conto come, al di là della preclusione, della possibilità di uscire soprattutto per i più giovani, poi quelli che si vengono a ricostituire sono, diciamo, delle strutture relazionali che facevano parte più che nell'attualità del nostro passato, e quindi questo non è un fatto, cioè stiamo sì diventando tutti più digitali, quindi emancipati sotto il profilo informatico, nella capacità di utilizzo appunto anche cognitivo di strumenti evoluti di comunicazione virtuale, non reale, ma allo stesso tempo chi fa cosa è ben scandito, diciamo, nei nostri atteggiamenti. E questo non attiene a quella libertà che tutti dovremmo avere per partecipare maggiormente alla società, anche e diciamo, anche soprattutto, diciamo, in questo caso dal punto di vista economico e lavorativo. Quindi su questo ci fermiamo ancora un istante, Antonio Tintori, devo dare la linea al traffico, poi riprendiamo anche con un altro interlocutore. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Melog 800240024. Scrive Fabrizio Intonti, che mi guata da casa sua, dice: sta attento che si vede che ti specchi nella telecamera quando parlano gli ascoltatori. Sì, è vero, cerco di aggiustarmi la cuffia, mi vedo i capelli che non mi sono mai visto, mi fa paura, e cerco di aggiustarmi un po' la cuffia come se mi facesse la ferma capelli. È una vanità umana che però è significativa anche della mutazione del rapporto di un conduttore radiofonico. È chiaro, mi prendete a casa mia, sono nel triste vestibolo del mio abitacolo in questo momento, vedete, con un pile e sotto c'ho i pantaloncini che tengo per girare per casa, sto a piedi scalzi. È chiaro che nulla è più come prima, mi sento anch'io regredito rispetto a una classica cura della persona, anche dell'aspetto esteriore, tipica di una persona, di un essere umano che si espone comunque a un pubblico. Stiamo di questo parlando, parliamo dell'osservatorio del CNR sui mutamenti sociali in atto. Sentiamo intanto un altro ascoltatore, poi vediamo di fare un punto. Quello che emerge è che probabilmente non ci rendiamo conto, ma usciremo, che saremo diversi, saremo una società diversa. Nessuno può dire se migliore o peggiore, ma saremo diversi. È il rischio che slittiamo verso una regressione di costumi, di uso, di equilibri, di considerazione comunque dei ruoli rispetto al genere, rispetto anche alla stratificazione sociale. Insomma, il rischio è che usciamo tutti più vecchi, una società che torna indietro almeno di 70 anni. È bello, divertente, folcloristico sentire le signore che rispolverano le macchine da cucire, e i signori che si sentono nuovamente portati alla manualità, a fare i muratori, gli idraulici, a occuparsi delle cose pratiche. Ma è un attimo prima di immaginare una società in cui le donne stanno a casa, fanno figli, cucinano, gli uomini escono alla ricerca di caccia, alla ricerca di combattimento, alla ricerca di fonti di sostentamento. A Merina, provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Ecco. No, io ecco, facevo questa riflessione che guardando un po' quello che accade, io abito vicino al supermercato e quindi vedo questi signori in fila, no? Mi sembra proprio che ci sia una... Quindi il suo cinema quotidiano è guardare le persone in fila. Sì, ecco, divertente. Vedo gli uomini che sono regrediti in tempi proprio primordiali, cioè questi uomini che non hanno più insomma il lavoro, magari hanno più tempo libero, sono ritornati ad essere i cacciatori, la mattina escono, devono ammazzare la preda da portare a casa, in questo caso il carrello pieno, quindi le donne sono ritornate. Anche quando vado al supermercato una volta a settimana mi sento come un cacciatore che va, io sono appassionato di film di invasioni zombie e ogni tanto c'è sempre l'ex poliziotto, l'ex militare, quello un pochino più addestrato che esce e va alla ricerca di cibo sfidando gli zombie affamati. Ecco, mi sento un po' quello. Quando sì, la mattina faccio dato... la spesa per la famiglia, uno spesone per la famiglia, dico, prendo sempre il doppio di tutto. Poi mi dico, ma perché hai preso tre volte quello che serviva? Dico, perché non so mai se ci potrò tornare la prossima volta. Quindi prendo il doppio e dura due settimane invece che una, anche meglio. Anche io ho notato la stessa cosa. Però insomma poi hanno dato una differenziazione. Le do, per esempio, io che sono sempre stata una donna lavoratrice, la spesa la vado a fare io, quindi i ruoli in un certo senso sono anche un po' conservati, no? Cioè non mi sento una raccoglitrice che aspetto il carrello pieno per poi le granaglie, no? Cioè non mi sento così, continuo a fare la spesa io, continuo ad uscire, cioè come ho fatto finora nella mia vita, però vedo che non siamo tanti così. Vedo questi uomini appunto che si sentono investiti del ruolo di cacciatori, devono procacciare il cibo per la famiglia, devono sentirsi in qualche modo ancora quelli che portano lo stipendio a casa, no? Diciamo, se continuerà, diciamo, nel paradosso, se la realtà sconfinerà nella narrazione fanta-horror, al prossimo giro gli uomini usciranno, ecco, come accade nei film delle catastrofi, alla ricerca di case da rapinare, di negozi da svaligiare, o nella peggiore delle ipotesi, perché si arriva anche a quello, in questa fila, non vi spaventate, sto dicendo come esorcismo alle realtà, si arriva poi al fatto che c'è sempre qualcuno che coltiva esseri umani, perché non essendoci più niente di mangiare, si mangia anche gli esseri umani. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Maura Manca, psicologa clinica. Maura Manca, psicologa clinica, psicoterapeuta. Volevo che ci aiutassi a commentare i dati che ci ha esposto Antonio Tintori, che ancora ci ascolta, su questa mutazione della società. Io l'ho subito bloccato sulla cosa che mi sembrava, secondo me, più interessante e anche più preoccupante. L'arretrare rispetto a quella che noi consideravamo civilizzazione. Dal tuo osservatorio, tu ogni giorno comunque continui a sentire i tuoi pazienti, si rivolgono a te le persone che hanno le fasi più acute di queste problematiche di gestione del quotidiano. Avverti qualcosa di simile come possibilità? Sì, poi non solo le persone con le fasi più acute, ma l'osservatorio è diventato più un osservatorio genitori che adolescenti in questa fase, quindi accoglienza famiglie. Io prima di parlare di arcaicismo sociale sottolineerei una reazione naturale da un punto di vista psicologico, perché quando l'individuo ha la percezione della paura, le sue reazioni immediate sono quelle orientate all'autopreservazione, quindi questo è un meccanismo naturale per cui tante volte l'incertezza economica e la paura di non avere più anche i soldi per poter spendere nella quotidianità sta facendo riattivare l'autonomia delle persone, dei mestieri, tra virgolette, che prima delegavamo a tutti, delegavamo alla sarta, delegavamo alla lavanderia, delegavamo a quello, a quell'altro, e a un certo momento stiamo ricercando un po' il fai da te, perché quello che io percepisco dalle famiglie è proprio la paura del futuro e dell'incertezza. Sto notando per esempio anche la reintroduzione del baratto e dello scambio, e tu mi vieni a fare il lavoro a casa, io ti faccio quest'altro tipo di lavoro, perché non ci sono, cioè la paura proprio di spendere e l'incertezza economica. Quindi questa è anche tutte però le cose che stai dicendo, Maura, che sono interessanti, molte sono anche state trattate, ieri abbiamo parlato proprio di questo, e conferma quello che dici te. Non ci porta verso una società, non voglio dire migliore o peggiore, ma molto diversa da quella che stavamo vivendo nel momento dell'entrata. Assolutamente sì, io anzi lo professo da diversi giorni e mi si scagliano anche contro quando continuo a dire di evitare di cercare quella che noi chiamavamo normalità, tutte le nostre abitudini e tutta la nostra la quotidianità. Sarà diverso perché c'è stato un impatto talmente invasivo e forte da un punto di vista individuale, familiare, sociale, economico, della salute, che c'è un cambiamento radicale. Questo dobbiamo accettarlo. Se noi questo non lo accettiamo. Cosa, Mauro, una domanda viene a me in questo momento. Come mai non ce ne stiamo accorgendo in corso d'opera? Quali sono? Abbiamo dei neurotrasmettitori, delle difese naturali? Perché nessuno si accorge veramente di... Stiamo cambiando ma non ce ne accorgiamo. Sembra quasi che sia diventata abbastanza... entra nella prassi quotidiana. In realtà, se mi guardo indietro, io sono un'altra persona rispetto a 2 mesi fa, ma totalmente. E me ne rendo conto adesso mentre parli te, come mai? Tutti noi siamo altre persone e abbiamo riscoperto determinati aspetti che non possiamo, cioè non possiamo cancellare. Quello che non capisce la gente, è qui che io mi imbestialisco, che pensano che a un certo momento arrivi un regista e dica: signori, è stato tutto un gioco, è finito il virus, non c'è più, si torna tutti come prima. Non è il Truman Show. È vita reale, siamo tutti diversi, perché questa condizione ci impatta. È un'unica parola la risposta, si chiama paura. Paura di staccarci dalle nostre abitudini, perché quello era un finto controllo, illusorio controllo, che ci faceva star tranquilli, avere tutta la gestione. Perché noi oggi ci rendiamo conto dei problemi, dei ruoli, di tutta una serie di cose, solo perché non li volevamo vedere, non perché non c'erano. Perché ci incastravamo nella nostra quotidianità illudendoci di gestirla e di controllarla, quindi abbiamo paura del cambiamento, che è assurdo, perché la paura del cambiamento ci sta portando a non vedere la realtà. Meno la vogliamo vedere, meno l'accettiamo, più impatterà psicologicamente su di noi. Io penso che avrete un bel lavoro voi psicologi, psichiatri, psicanalisti, tutti quelli che si occupano comunque dell'analisi e dell'azione sul profondo, perché quando si renderanno conto tutti, io me ne sto rendendo conto in questo momento mentre ascoltavo Mauro Manca, che siamo veramente cambiati, sono bastati 2 mesi e questa forza scatenante che è la paura di morire, di perdere i soldi, di perdere la sicurezza, di non vedere più le persone, ci ha fatto diventare altre persone. Quindi dalla prossima settimana cercheremo di metterci a punto su quello che è stato il nostro cambiamento, su quello che saremo quando usciamo. Grazie Antonio Tintori, grazie Mauro Manca, alla prossima.